No, io non li conosco i Compsat Angels, mi chiedeva Fabri. Allora, dicevo questa cosa cioè, ci sono cresciuto. Vabbè, intanto devo dire che di questi tempi è sempre un poco, come dire, un po' difficile sentire la necessità di parlare di così genericamente di musica. Sembra che o di altro che non sia l'urgenza, la situazione, la difficoltà che si sta vivendo, eccetera. Però una cosa che, come dire, cerco sempre di ricordare ai miei studenti, insomma, noi dobbiamo rivendicare la non necessità, tra virgolette, della musica. E io mi riguardo e dico, ma ci sono dei momenti in cui dico, ma che ci fate a seguire queste lezioni complicatissime, su argomenti complicatissimi, l'armonia, l'analisi e compagnia bella. Però poi mi dico, no, ma è proprio questa non necessità, l'essenza, che poi non necessità è molto relativo, insomma, andremmo a finire su un discorso infinito riguardante il senso dell'arte. Vabbè, detto questo, insomma, faccio lo sforzo e parlo seriamente di post-punk. Insomma, dicevo, è una cosa che mi ha accompagnato, insomma, in gioventù. E io che, insomma, facevo studi classici, così, poi sono stato folgorato da questa musica. E ci sta un libro molto bello sul post-punk di Simon Reynolds. Conosci questo? Certo, Eh certo che lo cioè conosco. conosco lui, ma non il Ah libro. beh, giornalista, ok. E lui dice a un certo punto una cosa in cui mi sono ritrovato subito. Dice: il motivo personale numero uno per scrivere questo libro sono i miei ricordi dell'epoca, un'inesauribile età dell'oro all'insegna della novità assoluta che ti faceva sentire proiettato a rotta di collo verso il futuro. E questa è la cosa, cioè. Realmente io con ascolti proprio da bambino tramite i miei fratelli dei Pink Floyd, dei Genesis, questa roba qui, poi sono stato travolto da quest'altra esperienza. Poi successivamente ci ho ripensato quando ho cominciato a occuparmi di analisi musicale, ci sono ritornato pensando di fare quello che normalmente facevo con la musica classica. Per questa musica, cioè cercare di capire come proprio tecnicamente come funziona, cosa che in genere non si fa mai. Reynolds fa notare che in genere del post-punk non si parla tanto, si parla del punk, si parla di altri, della psichedelia e così via. Si sono scritte montagne di libri, ma nel post-punk si parla poco. Ancora meno, e questo vale in generale per il rock, che è quasi sempre sentito come un fenomeno sociale più che culturale o musicale. Se ne parla tecnicamente. Allora, un po' tentativo l'ho fatto da questo punto di vista, cercare di capirla tecnicamente, e a qualcosa sono arrivato. Forse prima o poi mi metterò e scriverò qualcosa di ordinato, per adesso no. Insomma, nel senso che me la godo e basta. Però chissà, però delle idee così mi sono venute, allora le voglio un po' condividere. Allora, io parto da una cosa, il rock precedente era un rock che veniva dal blues. È la prima cosa che succede quando si passa non tanto al punk quanto al post-punk, si estirpa questa origine blues. E non si fa una cosa che era già stata fatta col progressive, che per inciso io odio. Gratuita così. Lo schifo proprio come la morte. ma devo dire che lo schifavo già all'epoca, cioè io mi sentivo alla fine degli anni 70, mi sentivo i Zeppelin, che erano blues, però non erano progressive. mi sentivo, guarda Stefania che sta ridendo, Si perché sente sa che adesso? Ok. Insomma, il progressive, qual era il difetto? Allora, la cosa che io ho sentito a un certo punto, ho capito che tutto il rock prima era una specie di fase infantile adolescenziale di quella musica. Quando è arrivato il post-punk, si è passati di colpo all'età adulta. Questa è la, diciamo, l'idea principale. E qual è la differenza? La differenza è che nel progressive, anche quello più evoluto, cosa succedeva? Per consegnare una maggiore credibilità e una, come dire, un'aura di serietà al rock, gli si facevano una serie di innesti. Gli si facevano innesti di jazz, di musica classica, certe volte con tecniche paurose, con competenza, nulla da dire. Però non si riusciva a costruire un nuovo linguaggio. E quello che succede appunto all'età, soprattutto nell'adolescenza, quando si cerca in tutti i modi di trovare una propria collocazione nel mondo, e lo si fa imitando gli adulti, cercando insomma, di riprodurre delle cose che fanno, eccetera. Poi c'è lo scatto in avanti e c'è il passaggio nell'età adulta, che significa crearsi innanzitutto un linguaggio proprio che non deve niente a niente, o meglio, deve come sempre qualcosa, però è autonomo, cioè lo domina questo linguaggio, anche il linguaggio del passato, le cose che ti vengono dai padri e dalle madri. Lo domina, lo padroneggia e lo fa proprio. Ed è questo quello che è successo. È successo però con un momento di rottura, che è quello del punk. Che anche quello c'aveva proprio degli atteggiamenti di fondo che poi si risolvono in delle cose tecniche. Era, come sappiamo, un azzeramento di tutto il precedente, ed era soprattutto, però, recuperando anche il rock più antico, eccetera. Però era innanzitutto, come dire, si basava sul fatto che tutti potessero suonare o cantare. Questa cosa generava dei fenomeni curiosi dal punto di vista delle scelte che si facevano. E io adesso vi vorrei far sentire, insieme a Greg, un pezzo, ovviamente, dei Sex Pistols. Ma quindi progressive neanche all'inizio, mai No, proprio. possiamo anche solo sentire qualcosa. No, no, no, ma non ti è proprio mai piaciuto fin dall'inizio. Quasi mai, Quasi quasi mai. mai. Ok. She was an hour. Allora, vabbè, io amo i Sex Pistols, amo John Lydon, alla faccia di chi dice che insomma è un venduto. Beh, le cose sono un po' più complesse di come sembrano. Basta leggere la sua autobiografia. Io beccai una volta un libro che non comprai, poi mi sono scordato di comprarlo e mi sono dimenticato che il libro fosse. In cui si chiarisce la sua famosa partecipazione all'Isola dei Famosi, versione Ah, ma per quello che inglese. dicono che è un venduto. Sì, anche per quello, vabbè, per altro, vabbè. E quella cosa, lo dico in breve, pare che lui l'avesse fatta semplicemente perché così poteva ottenere di fare il conduttore di una trasmissione sulla fauna marina. Perché lui è appassionato di fauna marina e quindi infatti lo si vede in certe immagini di YouTube che sta sott'acqua e parla con i pesci, una cosa di questo genere. Comunque, tornando al pezzo, allora questo pezzo qua, per chi insomma lo può notare, c'ha una caratteristica, c'ha una sequenza di accordi abbastanza semplice, solo che così nell'ottica di quella scioltezza estrema che avevano i punk, lui canta sistematicamente le note sbagliate. E lo fa sulla cosiddetta strofa, lo fa anche sul ritornello. Canta sistematicamente le note sbagliate e questo significa che crea, diciamo, dal punto di vista strettamente musicale, un attrito. Che non è tanto la dissonanza pure semplice come la conoscono chi pratica la musica, che ne so, musica del Novecento, musica moderna, eccetera, ma è un riformulare qualcosa che normalmente era inquadrato in uno schema. Cioè tutta la musica precedente difficilmente usciva fuori dai ranghi, anche nelle situazioni più sperimentali. Cioè c'era o la possibilità di stare esattamente dentro le regole, tra virgolette, dell'armonia, della melodia, eccetera, oppure di distruggere del tutto. Non c'era una via di mezzo. E questa già è una caratteristica che poi sarà propria del post-punk, cioè che riesce a fare una cosa fondamentale, che è una cosa rarissima nella storia, cioè di riuscire a veicolare delle sperimentazioni su qualcosa che invece è molto diretto. Cioè che si riconosce in qualche modo, creando un equilibrio mirabile tra queste due cose. E infatti, non a caso, Simon Reynolds, parlando del progetto che John Lydon ebbe dopo i Sex Pistols, cioè Public Image Limited, dice questo fu una specie di combinazione perfetta, e assolutamente inedita tra una star planetaria, qual era John Lydon all'epoca, e dei musicisti sperimentali, che erano Kate Levine, e gli altri. Quindi succede questa cosa qua. E questa cosa di ricontestualizzare singole note e farle confliggere con una normalità, poi era stata anche la caratteristica di altre esperienze. C'è un altro caso che voglio far sentire, strafamoso anche questo, che è Heroes di David Bowie. Cosa succede su Heroes? Si usa una sequenza di accordi e Robert Fripp tiene una nota fissa sotto questi accordi ed è sempre la stessa, e gli accordi girano la nota di questa chitarra molto effettata che sta sullo sfondo, resta indifferente a questi cambiamenti, il che genera delle situazioni armoniche non proprio ovvie. We'll be right back. ci siamo di nuovo. Che anno siamo qua? 77, quindi in pratica molto a ridosso dell'epoca punk. Ma io non lo so, mi perdo un poco perché sono talmente tante le cose da poter dire e talmente tanti esempi da portare che insomma è un po' difficile orientarsi. Ci proviamo, poi chiaramente le cose sono sempre, come dire, da prendere o beneficio inventario. Tra le tante, allora, anche perché quell'epoca fu talmente esplosiva, talmente ricca di sperimentazioni che ricostruirla è un'impresa pazzesca. Io prendo delle cose un po' così sulla base anche dei miei gusti personali, le cose che mi hanno formato, eccetera. E magari di ciascuno indico una caratteristica che può essere, era un po' una delle tante strade che venivano percorse, che tra l'altro, cosa interessante, venivano percorse ad ampio raggio, cioè le sperimentazioni fatte entrarono nella musica anche più di consumo, più pop col tempo, rendendo anche la musica pop dei primi anni Ottanta interessante, cioè varia e soprattutto con un linguaggio suo personale. Una di queste cose, il fatto è mano a mano, col fatto di sperimentare queste linee, come abbiamo sentito in Heroes di Bowie, viene estremizzata, cioè si incomincia a comporre per linee, ma c'è un passo precedente che è quello di sovrapporre tante linee melodiche. E per farvi capire questa cosa vi voglio far sentire un pezzo degli XTC, uno dei miei gruppi più amati, un quartetto molto solitario, molto particolare, che insomma è esistito fino a poco tempo fa, e assolutamente geniale. Il pezzo del 79, dal terzo disco, che è Drums and Wires, e Generous Measures, se si sente alla fine, loro prendono delle melodie, sono apparse durante tutta la canzone e le sovrappongono una all'altra. Right. Scusate, problemi, sono io che sono sempre sbadato. E volevo chiedere a Fabri subito, cioè, questo pezzo, cioè, vedo cioè, vedo un sacco di livelli di produzione, quindi a un certo punto gli ho chiesto, ma questo cos'è? Questo sembra quasi una roba elettronica, gli ho Sì, chiesto. no, no, ma quella era la sperimentazione anche in studio, era la norma, un po' diversa da quella dell'epoca psichedelica, che era appunto dire, oddio, che si può fare questa cosa, pazzesco. Invece loro hanno una consapevolezza della sperimentazione diretta, cioè sono sempre. Cioè non riescono assolutamente a stare fermi perché esplorano qualunque tipo di possibilità. Però ciascuna possibilità non diventa totalizzante, si incrociano una con l'altra. Infatti, questo pezzo abbiamo sentito alla fine, non solo c'è, questo l'avevo dimenticato, non solo c'è questa sovrapposizione di varie linee che tra l'altro stanno già nel pezzo e ce ne sono tante diverse. A questo proposito mi è venuto in mente una cosa che dopo dico, ma c'è anche dei cambi di accordi, cioè la stessa cosa che c'era prima, la stessa melodia che c'era prima viene riarmonizzata diversamente alla fine. Questa cosa delle linee, di cominciare a comporre per linee, comunque di curare estremamente singole linee, mi riporta alla mente un aneddoto. Che riguarda appunto quando ero ragazzetto e c'era uno dei primi delle prime band New Wave napoletane che erano i Little Italy. E mi ricordo che il tastierista, parlando di come stavano costruendo un pezzo, disse: e qua eravamo già comunque in tempi un po' successivi, disse: e no, ma non si può scrivere una parte, fare una parte di tastiera con gli accordi e basta, bisogna costruire delle linee, bisogna costruire qualcosa che sia decisivo. Allora, in pratica, un'altra caratteristica è questa, cioè l'idea degli accordi nudi e crudi, così come riempitivo, anche come base, viene un po' messa da parte e a un certo punto si cominciano letteralmente a costruire i pezzi senza accordi, ma con delle armonie che si generano da questo incrocio di linee. E questa cosa si può sentire un pezzo, tantissimi pezzi, ne sentiremo magari un paio. E il primo è un pezzo di New Order dell'81. Diciamo che qua vedete che c'è una linea di basso e sopra questa linea di basso si sovrappongono almeno altre due linee che sono una linea strumentale, chitarristica e le voci, e si incastrano e sono soprattutto scelte in modo da essere dissonanti, non consonanti, dissonanze morbide, ma comunque dissonanze. Io, cioè, una cosa che mi veniva da chiederti era quanto sono, cioè, ignorantemente mi viene da dire, oh, cosa? Se altro una cosa che mi viene da chiederti, cioè, sentendo le tue parole, è quasi come se nel punk fossero alcuni degli accorgimenti tecnici di cui tu ci stavi parlando fossero magari inconsapevoli e Sì, magari nel post-punk diventano consapevoli. esatto, è questo che è avvenuto. È avvenuto perché c'era nel punk c'era un'azione di rottura che ha prodotto una serie di effetti imprevisti. E questi effetti imprevisti poi sono stati presi dal post-punk e messi in opera in tante situazioni, in tante versioni. Quello in realtà il post-punk mantiene un atteggiamento radicale di rottura, però le prova tutte. Cioè, la differenza col punk è che dei modelli di, almeno nella prima fase, dei modelli di stilistici non c'erano. Si poteva fare di tutto e si poteva utilizzare anche qualunque materiale musicale. Tant'è che, per esempio, proprio John Lydon racconta sto fatto che lui fu invitato dopo Sex Pistols e all'inizio dell'esperienza Public Image, fu invitato in radio a mettere della musica. Tutti si aspettavano che mettesse cose punk, invece mise zero punk, zero rock, mise un sacco di dub, un sacco di reggae, anche cose della vecchia tradizione americana, insomma, cose che nessuno si aspettava potessero essere, diciamo, patrimonio di John Lydon. Questo fatto delle linee voglio un attimo spiegare meglio. Si intende questo, che come nel pezzo dei New Order, come in tanti altri, ci sono delle linee melodiche che si incontrano e l'armonia, che naturalmente è spesso implicita in una melodia, si forma dall'incontro tra queste linee, diciamo una specie di polifonia che, se si vuole, è molto arcaica, cioè una tipologia di cosa molto arcaica, però naturalmente noi dobbiamo ben guardarci da, come dire, fare il raffronto tra questa musica e, che ne so, la musica classica, la musica dell'epoca medievale o del Rinascimento, eccetera, che magari sono musiche o del Novecento, che sono musiche che avevano già sperimentato qualunque tipo di tecnica, ma non è questo il tipo di ragionamento da fare. Bisogna contestualizzare le cose, nella loro epoca, nel loro momento e così via. E da questo punto di vista era incredibilmente moderno e innovativo quello che facevano. Insomma, in pratica, collocando una sull'altra queste melodie e spesso, come avviene nella seconda parte del pezzo New Order, spostando delle cose, cioè cambiando alcune cose ma lasciandone intatte altre, si moltiplicano dei nuovi risultati armonici, che però non sono definiti come quelli di un accordo, che voi vi seguite la sequenza di accordi, è tutto chiaro, invece è tutto molto più sfumato, molto più impreciso, e da questo punto di vista c'è la modernità. Cioè, questo poi, magari se ci sarà il tempo, magari parliamo di questo progetto del flusso Sì. che ha a che fare con quest'idea qua. Vabbè, voglio far sentire un altro mirabile esempio di questo incrocio tra linee, che è un pezzo di Dalis Carr. Dalis Carr fu questo duo che pubblicò il suo disco nell'84, composto da Peter Murphy dei Bauhaus e da Mick Karn dei Japan, insomma due gruppi che avevano prodotto cose notevoli, perfettamente coerenti con l'idea sperimentale di questa musica. Sentiamolo, sentite verso la fine, anche lì avviene una sovrapposizione di linee incredibilmente interessante. Il pezzo per il resto è monocorde quasi, e come dire, si comincia a proliferare piano piano con tutte queste aggiunte. perfetto. Together arm in arm, in an avenue wide and tall, tall buck buildings telling tales. It's the spring of fall. Time is waiting on the floor. Go grab you from home. My friend is clawing at the dial and tells us half past two. Opened up, I leave my friend no fear. The jacket man with piercing suit is looking for a tear. He jerks his words in monotone hum and draws a picture clear of Dolly's car, his silent cell. And I pierce it like a spear. Tell me, man, like or not, my time is short and soon I'll take your clock for Dolly's car. Spinning in the room, spinning in the room, spinning in the room. Volevo solo dire che se avete domande, siccome siamo in diretta su radioquarantella@gmail.com, potete inviarle. Se Fabri vuole subito aggiungere qualcosa a stretto giro sul pezzo e poi magari farti una domanda da casa. No, no, credo che qua sia proprio particolarmente evidente questo fatto di un'assenza di un'armonia precisa, del fatto che il pezzo prende forma da tutte queste sovrapposizioni. Tra l'altro ci sono... un numero, quanti saranno? 6, 7 melodie diverse, 8, 10 c'è la linea di basso, c'è la linea della voce, c'è un clarinetto basso, c'è una specie di chitarra, c'è una tastierina, e tutte poi si scambiano, si incrociano, si sovrappongono, eccetera, soprattutto verso la fine. Cioè proprio si incastrano anche a velocità diverse, con un concetto simile a quello di antica musica polifonica, però qua prende tutta un'altra suggestione. C'era sì, no, cioè quello che ci dici tu è che insomma dei musicisti si ritrovano in questo spazio temporale a fare delle cose che prima non erano mai state fatte nell'ambito della musica rock, e Giusy dalla redazione di Quarantella invece ci chiedeva se le case discografiche hanno avuto un ruolo in questa sperimentazione. Ma quella è stata la fase in cui sono nate le etichette indipendenti, non ce lo dobbiamo dimenticare, prima non esistevano. Non è un caso che siano nate proprio lì. Il libro di Reinhold si spiega molto bene, con molti dettagli, tutto questo processo. Devo tenere conto che chiaramente lì c'erano dei costi molto elevati rispetto a quelli che si possono avere oggi per la pubblicazione di un disco, però loro riuscivano a fare in modo di autoprodursi creandosi, che ne so, le copertine a mano, stampandolo in varie maniere. Tra l'altro questa cosa qua aveva un legame anche col punk, perché il punk era stato già una sperimentazione creativa molto avanzata, cioè anche in termini di immagine, di grafica e così via. Questa cosa la ricorda bene John Lydon, perché dice: ma quando mai? Ma noi mica avevamo all'inizio nel punk, avevamo questa cosa degli oggetti identificativi dell'abbigliamento, del trucco, cioè la cresta, il chiodo e così via. Noi invece avevamo una serie di cose, poche, perché eravamo mediamente poveri, di famiglie operaie, eccetera, e però ce le reinterpretavamo a nostro gusto, fondamentalmente sperimentando le situazioni più strane, semplicemente perché avevo un bisogno di creatività, di muoversi tra le cose, non stare inquadrati, che li portava a sperimentare in tutte le direzioni. E quindi nel post-punk si sperimentò anche sul piano della produzione, cioè trovare delle maniere per produrre anche discograficamente, impostare delle cose in maniera differente dal solito, e fu una cosa molto radicale. È proprio lì che sono nate le etichette indipendenti. Poi questa cosa è stata fagocitata dal business, o alcune etichette indipendenti sono diventate grosse e così via, però questa situazione è durata un bel po', e insomma magari fosse così facile riprodurre una situazione di questo genere oggi. Passiamo a un altro pezzo. Sì. Allora, un'altra cosa che insomma, molto spesso si identifica col post-punk è un'atmosfera claustrofobica, scura, il cosiddetto dark, poi all'origine si chiama gothic, che poi è diventato un genere ed era praticamente quasi la norma negli anni intorno all'81-82. E quella è una cosa importante, perché sdogana per il rock, sempre abituato a questa cosa un po' muscolare, un po' diretta, invece un'atmosfera cupa, di ripiegamento, con tutto quello che significa dal punto di vista tecnico. Bisogna fare delle scelte per ottenere musicali, per ottenere quel tipo di oscurità, di inquietudine, di cupezza. Era successo qualche volta, raramente, che in qualche modo si possono ritrovare degli antecedenti di questa atmosfera cupa, ma quando questa cosa si apre nelle mani del post-punk diventa un altro, proprio letteralmente uno spazio in cui sperimentare di tutto e andare veramente a costruire le cose più inquietanti del mondo. Tra quelli che hanno cominciato questa cosa qui sono i Wire, gruppo inglese per me fondamentale, poi vi dico anche perché, per un'altra ragione. E questo pezzo qua, cantato dal bassista Ryan Lewis, è del 79 ed è veramente angosciante. Thank you. Allora, ci sono. Ci sei. Anche qui avete visto che ci sono linee e vabbè, per chi vuole informazioni tecniche, questo uso di una scala minore con il sesto grado era quasi escluso dalla pratica precedente, perché la pratica blues prevede che il sesto grado minore sia escluso o pressoché escluso, e anche la seconda minore contribuiscono a creare questa atmosfera angosciosissima. E poi c'è la voce di Ran Lewis, che già va verso una direzione, un altro elemento tipico, quello di usare delle voci scure. Questo un po' veniva da altre esperienze, anche dallo stesso Bowie, che talvolta sono, anzi spesso sono, e questo anche viene dal punk, sono un po' stonate, un po' fuori tono, mai precise, e piuttosto non educate. Come dire, entra in gioco una maniera diversa di intendere anche l'accordatura. Spesso si sentono bassi o linee vocali, una classica, proprio tipica stonatura perpetua era quella di oh Gesù, non me lo ricordo più come si chiama, cantante di Joy Division. Gesù, oh madonna. Dobbiamo cercarlo su Google. Ce lo scriveranno. È quello che è morto, no? È quello che morì. Cazzarola. Gesù, vabbè, lui, insomma. Cerchiamo un attimo, perché è vergognoso il fatto che non ce lo ricordiamo. Sì, vabbè, penso che abbiamo entrambi l'Alzheimer. A proposito di Gran Luis, voglio raccontare questa cosa che ci rappresenta anche proprio un atteggiamento, Ian Curtis, giusto, Maron, vergogna, che ci fa pensare a come era proprio radicato l'atteggiamento estremista, sperimentale di questi musicisti. Io col mio gruppo nell'88 stavamo registrando il Lacrime Quartet, stavamo registrando questo disco secondo, e era l'epoca di MySpace, che incredibilmente sembrava poi sparì, sembrava che potesse creare una mega comunità planetaria tra musicisti. Era molto facile scrivere a un musicista che si amava, e io decisi di scrivere a Gran Lewis. Dico, vabbè, io mi iscrivo, dico, vuoi partecipare a un pezzo nostro? Noi stiamo facendo una cosa. Lui, senza fare una piega, disse, vabbè, tu manda il pezzo, vediamo. E prese il pezzo e dopo pochi giorni me lo rimandò indietro, tutto rielaborato, trattato elettronicamente, c'era anche la sua voce, lui aveva scritto un testo, ci aveva cantato su. Però, curiosamente, non cantava con questa voce che avete sentito, scura, baritonale, eccetera, ma una voce acuta, strana, così. Vabbè, insomma, a me non convinse molto la cosa. E dissi a Gianluca, il chitarrista di là, che mi guarda, io gli scrivo, dico che non ci piace. Gianluca, ma tu sei pazzo, su. Dice a Gran Lewis, non va bene, prendiamoci quello che c'è, zitti. No, ma io ci voglio provare. Ok, gli spiegai a Gran Lewis le mie ragioni. Disse, ma lo sa, lui scrisse, ma lo sai che fosse ragione, ma tu ci hai colto, adesso la riregistro. Ok, la riregistrò e in più fece delle modifiche alla struttura del pezzo che ci risolsero un problema di struttura che non riusciamo su cui non riusciamo a venire a capo. E vabbè, al di là di questo, di questa bellissima esperienza, poi il pezzo fu bello, ci piacque, eccetera, dico, mi pare normale che uno che poi, insomma, suonava mezzo mondo, eccetera, con i Wire, ci desse udienza tranquillamente, senza nessun tipo di problema, eccetera. Ma questo era proprio nella natura di questi artisti. E infatti poi ci è capitato di collaborare anche con altri artisti di quella generazione. E io quindi un altro pezzo di Wire ve lo devo mollare, perché è poi il pezzo che dà il nome alla trasmissione, Two People in a Room. Voglio solamente leggere un po' giusto il testo. Questo invece è cantato dall'altro. Ma che è i nomi oggi? Vabbè, ci sta, non mi ricordarti. Mi viene Colin Moulding, il bassista dei XTC, invece non mi viene il suo, che c'è anche come amico. Leggo il testo perché è troppo bello, e che naturalmente rappresenta anche quella che era Colin Newman. Colin Newman, esatto, che era il la temperie, l'atteggiamento, che mi sembra curiosamente poi tra l'altro consono a questi tempi. Dice: due persone in una stanza, i movimenti del viso tradiscono un display privato, un disturbo nervoso. E tortura reciproca, due persone in una stanza, l'immagine insanguinata evocata, ma nessuno è ferito. Le armi sono scelte, ma l'azione è congelata. Due persone in una stanza, le posizioni sono spostate, il cessate il fuoco non è stato interrotto, l'illuminazione è feroce e destinata a perforare qualsiasi mantello dell'inganno e incoraggiare la ritirata. E Dio, sono così dotati, mio Dio, sono così dotati, mio Dio, sono così dotati. Due persone in una stanza a posizioni personali, un'indicazione di precedenti decisioni aggressive. Insomma, una rappresentazione raggelante di questa immagine ferma, e il pezzo è un pezzo incredibile, veramente tanto incredibile. Loro continuano a rifarlo dal vivo anche oggi, tra i pochi che rifanno del vecchio repertorio. In realtà avrei voluto far sentire prima un altro pezzo. Io se vuoi l'ho preparata, era, in a room. Volevo far sentire un pezzo invece dei Gentle Giant, prima di sentire questo, poi magari riparlo di questo, perché volevo farvi notare una cosa. Questo pezzo dei Gentle Giant è un esemplare di quello che era, comincio un po' dopo, esemplare di quello che era il progressive, suonato con una perizia paurosa, ma ci sono, c'è qualunque genere dentro, ci sono continuamente cambi di tempo, cambi di durata delle frasi asimmetriche, eccetera. Questo lo ritroveremo, le frasi asimmetriche in particolare, nel pezzo di Wire che sentiremo dopo, ma praticamente non ci se ne accorgere, non è una dimostrazione di sapienza, ma una cosa fatta per creare una struttura globale, per creare dei allentamenti di ogni frase, quella che insomma tecnicamente si chiama struttura della frase, che viene modificata, allungata o accorciata per ottenere degli effetti globali. Vabbè, sentiamoci un attimo questo dei Gentle Giant, anche non tutto, perché sennò io sclero. Giustamente. And with no questions then he finds his way. Tomorrow's never dawn, only today. Content within his time just drifts away. Lascio un tappeto. Vabbè, volendo uno potrebbe dire anche in questo caso ci sono tante linee eccetera, però le linee sono decorative, non sono strutturali, che è una cosa differente. Anche nel pezzo dei Wire che sentiamo ci sono linee e sono mirate a creare delle dissonanze che non sono dei corpi sonori come quelli dei Gentle Giant, cioè adesso metto un bel accordone dissonante, lo inframmezzo, lo interpolo ad altre cose e via così. Ma sono dissonanze come erano intese in origine, cioè oggetti per creare tensione e non indifferenti. Questo pezzo di Wire è Two People in a Room, da cui prende il nome la trasmissione. La puntata di oggi. Vai. To be in a room, facial movement to the try. Allora, notate un po' questa irregolarità delle frasi, di questa frase sta facendo Colin Newman ora, ma anche di quella, diciamo, il B della frase principale, dei due accordi principali, quando lui urla alto. Allora, quando si parla di linee e di conseguenze di accumulo, di procedimenti per accumulo di cose, ma anche di ibridazioni con qualunque genere musicale, inevitabilmente si pensa a Talking Heads. E anche questo pezzo qua che mantiene poi tutta una serie di elementi che vengono dalla musica africana, anche dal dub e poi dal jazz, dal funk, eccetera. È un misto, un'ibridazione totale. È padroneggiata questa roba, è estremamente diversa dall'atteggiamento progressive. Cioè si vede, si percepisce, si capisce una serie di dettagli che questi musicisti facevano quello che volevano di tutti questi generi, li miscolavano, li utilizzavano come materiali sonori e non come cose per raggiungere, per conquistare una credibilità. The Great Curve. We'll be right back. vabbè, anche qui tutte ste linee si intrecciano, si incastrano, tutto tesissimo, eccetera. Tra l'altro, cioè, David Byrne, che questo suo libro molto interessante, recente, parla proprio di questo procedimento accumulativo che usavano per costruire questi pezzi. Niente, ci stava una domanda. No, ci chiedevano un po' gamba tesa. Tu hai avuto un gruppo negli anni 80? O nel senso, queste cose che ci dicevi le hai espresse poi in un gruppo? Sì, ci ho provato. No, allora, negli anni 80 no. Negli anni 80 prevalentemente li ho dedicati a studiare la composizione, a fare il bravo. Prima, negli anni 70, io cominciai a suonare praticando la libera improvvisazione, una vecchia storia, una cosa che adesso ancora si porta, si cerca, eccetera. E all'epoca suonavo la tromba, era una formazione molto relativa, e facevo libera improvvisazione radicale. A quell'epoca la musica radicale era proprio la musica del momento, parlo del 77-78, sì. Dopodiché, appunto, smisi, uno perché c'era il post-punk, due perché mi misi contemporaneamente a studiare composizione. Dopodiché, negli anni 90, ho avuto un gruppo con cui provai, che si chiama Audiopan, con cui provai a, diciamo, in qualche modo a fare tesoro di quelle che erano quello che avevo imparato col post-punk, ma in realtà poi questa cosa è rimasta in lacrime, che è una cosa degli anni 2000, insomma, nata del 2002, e seguita successivamente. Vabbè, tornando al discorso sul post-punk, qua c'è un pezzo dei Blue Nile, questo gruppo molto defilato inglese. Questo disco dell'83, il primo disco, è il pezzo di apertura, sconcertante, nel senso che aprire un disco così, con questo pezzo, era una cosa probabilmente possibile solo all'epoca. Il pezzo non è particolarmente dissonante, ma mi metterei a fare un paragone, chiaramente sui titoli di distinguo, tra la differenza tra la musica di Debussy e quella di Schoenberg. Come Debussy era apparentemente meno radicale di Schoenberg, ma in realtà lo era molto di più. Perché loro che fanno? Prendono una serie di oggetti sonori e ci costruiscono una canzone. Sono, sì, dei fenomeni che avvengono, abbastanza identificabili, niente di particolarmente complicato, infatti poi comunque è godibile il tutto, ma l'anomalia sta proprio nel fatto di riuscire a pensare un pezzo del genere. E questa è un'altra cosa che avverrà molto spesso, cioè che, diciamo, il passo successivo rispetto a quello delle linee che si sovrappongono, si costruiranno dei pezzi fatti di oggetti sonori che appaiono e scompaiono. Questo, per esempio, si sa, un pezzo di Bauhaus, vabbè, non ce l'ho a portata di mano, non lo sentiamo, che pure è così. E spero che si capisca quello che cerco di dire. Io ci provo, forse la musica parla meglio. I follow broken threads. succede un po' che anche la batteria diventa qualcosa di non fatto per dare un ritmo. C'ha quella cosa della quadratura, eccetera, ma è anche quello un oggetto sonoro, sta lì e dialoga con il resto. Un caso ancora più estremo, vabbè, quello ci sarebbe un sacco di cose da dire ancora, impossibile, cioè, che ne so, ci sta tutta la categoria di quelli che mettevano accordi iperdissonanti, però contestualizzandoli un sistema di canzone normale, diciamo così, però tutti gli accordi sono tutti storti. Però non a caso facevano in modo che fosse, apparisse una canzone perfettamente inquadrata, che ne so, penso a Gang of Four, a MX80, boh, insomma, vabbè, facciamo che passiamo uno dei casi proprio estremi, estremissimi, diciamo tardi, cioè parliamo della fase più tarda, cioè la fase in cui ci furono dei musicisti che continuarono a seguire quella linea ma inventando delle cose nuove. Parlo dell'86 di Steve Albini, che molti conoscono come produttore di Nirvana, ma è un musicista della Madonna. Il suo primo progetto era i Big Black. Questo pezzo qua si chiama Jordan Minnesota, una oscura storia su una tratta di bambini usati a scopi sessuali, insomma una oscura questione che apparve in quella città in Minnesota. E la caratteristica di questo pezzo è che è concepito proprio strutturalmente per creare una tensione estrema. Non sto qui a dire nel dettaglio, c'ho proprio una cosa scritta che scrissi tanto tempo fa per una rivista che proprio analizza passo dopo passo il pezzo. Resto solamente sul fatto che in pratica lui costruisce i tasselli del pezzo in modo da ottenere un'estrema tensione, veramente diventa esasperante verso la fine del pezzo. Ma la cosa che a noi interessa in immediato e che magari uno riesce a percepire senza troppi tecnicismi è che lui usa pochissime cose. E come riesce a ottenere questo accumulo di tensione? Collocando le cose in una determinata maniera, creando dei vuoti, dei pieni, delle attese, degli aumenti di tensione in determinati punti precisi. Cioè fa un lavoro strutturale, non mette insieme cose per costruire una canzone e basta, per quanto iper elaborata possa essere. Usa pochissimi elementi semplici. Big Black, Jordan, Minnesota. lui praticamente che fa? Gioca tutto sui vuoti che crea a un certo punto e cosa mette in quei vuoti. E la tensione nasce da questo. Ma tu mi volevi chiedere qualcosa, forse. No, perché io ascoltando questo pezzo ho ripensato nella mia non preparazione musicale, ho pensato, mi è venuto subito in mente il math rock che ho ascoltato in maniera molto inconsapevole, nel senso che sono più giovane di Fabri, e, però negli anni 90 sono cresciuto musicalmente nei 2000, ma è ancora forte tuttora ed era molto forte l'influenza del math rock di certe band che mi hanno richiamato molto questo pezzo qui, quindi gli ho chiesto, mentre il pezzo andava, eravamo fuori onda, cos'era il math rock, perché si chiamasse così, e a un certo punto ho pensato, adesso mo gli sparo questa domanda provocativa, nel senso che math rock, certe sonorità, è una musica elitaria? Questa era la domanda. Ma quello, il math rock, appartiene alla, diciamo, alla propaggine estrema del post-punk, tant'è vero che Steve Albini dice che il debitore, è estremo debitore, per esempio, proprio ai Wire, ed è un esperimento che, diciamo, da un certo punto di vista recupera delle cose del progressive, nel senso che è fatto di strutture asimmetriche, di tempi impossibili, di cose che cambiano sempre, eccetera, però lo fa in un contesto punk, cioè estremamente duro, cattivo e così via. Che sia l'Italia, questo è un problema. Allora, io prima abbiamo sentito i Talking Heads, ma io mi ricordo che nei primi anni 80 in discoteca si sentivano i Talking Heads. Cioè, è tutto dire. Cioè, sentivo la musica lì. Era proprio ovunque. E la caratteristica era proprio quella di riuscire ad essere fisica e immediata, pur conservando una quota di sperimentazione altissima. È un caso unico, cioè vuol dire ci servono una serie di condizioni pazzesche per avere una possibilità del genere, cioè che musica che è di vasto consumo e anche probabilmente non capiterà mai più. Poi qua si apre tutto il discorso sull'avanguardia, sulla sperimentazione, che naturalmente ce lo risparmiamo per adesso almeno. Però quella è la cosa, cioè da un certo punto di vista il math rock, utilizzando come dire, certi atteggiamenti propri del punk, comunque ha conservato nella sua complessità, nella sua osticità, ha conservato un rapporto con il suo pubblico, quindi sì, radicale, sperimentale, ma comunque in qualche modo diretto. Insomma, siccome siamo più o meno da due ore in diretta, vabbè, problemini tecnici iniziali, ma insomma abbiamo spremuto ben bene Fabri e spero di spremerlo anche prossimamente in altre puntate, perché prima ci diceva che vorrebbe farci ascoltare altre 1000 pezzi, però magari, siccome comunque è domenica per tutti, di Stefi. E a sto punto io passerei da un discorso che comunque ci era in qualche modo, nel senso, vicini ma distanti, nel senso che abbiamo parlato di protagonisti che lontani da noi, e torniamo subito invece a bomba su il post-punk, punk, ok, ma adesso cosa stiamo facendo? Cosa, Fabri, tu cosa stai facendo anche in questi giorni di quarantena? Mi parlava di questo flusso sonoro che io non sono riuscito a seguire e di cui me ne parlava, nel senso un flusso sonoro nato all'interno dell'ex Silo Filangieri, della sua comunità, durante la quarantena. Stanno sperimentando qualcosa e non ho capito cos'è. Sì, anche questo un po' nasce da questa idea di sovrapposizione di linee. Allora, praticamente c'è una call aperta a chiunque voglia partecipare, che suoni, in cui praticamente si propone di registrare a casa propria delle linee basate su dei parametri che poi vengono combinate insieme in maniera casuale. Cioè, nel senso, una linea può partire prima, una dopo, così. A cazzo, diciamo, tecnicamente. Però il risultato dovrebbe essere in qualche modo garantito da questi parametri di riferimento. Non lo so, a me piace questa parte che mi riporta a queste modalità di cui abbiamo parlato, a cui sono tanto legato. ma poi in qualche modo, visto che ci sono tanti che stanno partecipando da ogni parte, che stanno dando il loro contributo a questa cosa ipercollettiva, secondo me è un bel fatto che in qualche modo ancora una volta esprime i contenuti che insomma hanno portato così vicino all'asilo Filangieri, così dentro, cioè quindi di una collaborare, di una idea di cooperazione potenzialmente infinita, espansa e libera, orizzontale, cioè senza una centralità. Di tutti questi materiali già ce ne sono molti, molti contributi, è venuto fuori un primo pezzo. Ne approfitto qua, se ci fosse qualcuno in collegamento che vuole partecipare, basta andare sul sito dell'asilo o sulla pagina dell'asilo e si trova questa call per questo flusso sonoro. Ci si legge il PDF e si registra anche alla buona, cioè senza nessun tipo di problema. Poi ci pensiamo noi a sistemare tutto. E il risultato che sentirete, prima, perché sono 40 minuti ovviamente, ne sentiamo giusto un accenno, è proprio questo, cioè queste linee assemblate assieme di uno dei insiemi, di uno dei flussi possibili, che sono state messe, collocate assieme liberamente, cioè messe un poco dove capitava, ed è venuto fuori questo. Ne potrebbero venire fuori altre 10.000 versioni diverse, perché su 45 minuti si ricollocano delle cose, delle linee, dei contributi fatti da tanti musicisti, qua ne sono tipo una trentina, credo. E quindi viene fuori una cosa completamente diversa, non completamente diversa, il mondo è sempre lo stesso perché i parametri sono gli stessi, ma la sequenza è diversa. Thank you. abbiamo appena deciso, lasciamo in sottofondo per chi se la vuole assuppare per intera, per 40 minuti. Comunque, devo dire che suona molto post-punk questa cosa. Allora, ripeto, chi vuole partecipare si va a leggere sul sito dell'asilo oppure su Facebook, ci sta, credo, ci dovrebbe stare, insomma, da qualche parte un posto con questa call, e segue il PDF e la fa. Niente. Poi dopo, mano a mano, si formano altri, verranno fuori e pubblicheremo, insomma, qualche altro risultato di tutto questo mélange di cose. Sì, chiedevo a Fabrizio cosa significa questo flusso sonoro per ignari, ignoranti come me. Per asilo intendiamo ex asilo Filangieri a Napoli, che si sta facendo da collettore di... Semplicemente rispondendo ad alcuni parametri, come ho capito io, nel senso... non è ok a cazzo, ma non proprio a cazzo. Cioè, no, si usano determinate note, esatto, determinati tipi di dinamiche e così via. Si sta dentro quelle, però poi dentro quelle si può fare. All'interno dello stesso tempo, praticamente il tempo... Sì, non necessariamente, alcune cose sono senza tempo. Ok. E si crea, diciamo, una cosa che ha un certo mood, poi però ciascuna linea si può combinare poi con altre, cioè possono essere combinazioni incrociate, poi insomma vediamo cosa ne verrà fuori. E quindi si possono fare questo, cioè se vedevate, se facevate caso a quello che c'era sotto, questa pulsazione continua si trasformava continuamente di suono, di timbro, perché una volta ci stava un violoncello, una volta appariva un synth, un altro momento una percussione, un altro momento una chitarra, e queste cose si messe in maniera pressoché casuale, che entrano e escono, creano questo flusso sempre cangiante, diciamo così, e certe volte si creano delle situazioni strane, perché se all'inizio, per esempio, di questa versione ci sta una frase presa, mi pare, da uno synth, e viene rifatta la stessa frase di tre note da un sax, ma è casuale, cioè non è che ho costruito, a un certo punto si sono ritrovati magicamente queste note una dietro l'altra, e questo è il bello. Poi si scoprono anche delle combinazioni che magari uno non avrebbe cercato in condizioni normali, le si lascia cercare al caso, questa è la cosa. E poi naturalmente questi vari flussi sonori dovrebbero contribuire a costruire un progetto multimediale, anche quello aperto a contributi eccetera, che più o meno abbiamo chiamato La Tela, in cui ci stanno, oltre la musica costruita in questo modo, anche letture, immagini, testi eccetera, che si combinano anche quelli così, in maniera parzialmente caotica e casuale. Two people in a room, proviamo ad essere professionali, questo era il nome di questa trasmissione, e che prende il nome appunto da una canzone dei The Wire. Noi adesso però, Two People in a Room, che adesso cambiano stanza perché dobbiamo mangiare, che siamo sfatti dopo due ore di diretta. Però in realtà noi abbiamo deciso che vi lasciamo questo bel tappeto sonoro per altri 40 minuti, quindi ve li potete lasciare comunque mentre noi andiamo di là. E ovviamente non ci offendiamo se andate anche voi a mangiare o se decidete di ascoltare finalmente altro. Torniamo in semidiretta alle 16 con un altro programma. Questa volta non sarò con Fabri, lo lascio tranquillo a dormicchiare, ma saremo con la redazione Accidents, che sta lavorando a un film, forse, forse no, non lo sappiamo. Dovrebbe essere un'intervista, sarà un'intervista un po' un casino, e vabbè, la sentirete alle 16, e come anche quella sarà un ottimo sottofondo di eccedenza, come piace dire a loro. Vi lasciamo, vi diamo un bacione e ci risentiamo presto, magari una prossima puntata di Two People in a Room. Thank you.

Mm-hmm.